Lettera ai Filippesi. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con gli episcopi e i diaconi. Grazia a voi e pace da parte di Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ringrazio il mio Dio ogni volta che vi ricordo. In ogni mia supplica prego sempre con gioia per tutti voi, perché avete collaborato al Vangelo dal primo giorno fino al presente. Ho la ferma convinzione che colui che ha iniziato tra voi quest'opera eccellente la porterà a termine fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto che così pensi di tutti voi, perché vi porto nel cuore, essendo voi tutti, e nelle mie catene, e nella difesa e consolidamento del Vangelo, partecipi con me della grazia. Sì, mi è testimone Dio quanto ardentemente ricerchi tutti voi col cuore di Cristo Gesù. Questo io chiedo, che il vostro amore cresca sempre più in conoscenza e ogni delicato sentimento, affinché apprezziate le cose migliori e così siate puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ricolmi del frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Ora, fratelli, desidero informarvi che le mie vicende sono risultate di vantaggio al Vangelo, a tal punto che le mie catene per Cristo sono famose in tutto il pretorio e altrove. E molti fratelli, fiduciosi nel Signore a motivo della mia prigionia, con più fierezza annunciano senza timore la parola di Dio. Alcuni, certo, predicano il Cristo mossi da invidia e da spirito di parte, altri invece con buona disposizione. Gli uni annunciano il Cristo per amore, ben sapendo che io sono posto a difesa del Vangelo, gli altri invece per ambizione, con slealtà, immaginando di aumentare il peso delle mie catene. Che me ne importa? Dopotutto, o per pretesto o sinceramente, Cristo in ogni modo è annunciato. E di questo godo, anzi continuerò a godere. So infatti che grazie alla vostra preghiera e all'aiuto che mi darà lo Spirito di Gesù Cristo, questo gioverà alla mia salvezza. Questo ardentemente attendo e spero. Nulla mi farà arrossire, ma con tutta franchezza, anche al presente, come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, vivere è Cristo, e il morire un guadagno. Perché se continuare a vivere nella carne mi frutta lavoro, non so cosa scegliere. Sono preso da due sentimenti. Desidero andarmene ed essere col Cristo, e sarebbe preferibile, ma continuare a vivere nella carne è più necessario per il vostro bene. Persuaso di ciò, so che rimarrò e sarò accanto a tutti voi per il vostro progresso e la vostra gioia della fede, affinché il vostro vanto per me s'accresca in Cristo Gesù, col mio nuovo ritorno tra voi. Soltanto comportatevi in maniera degna del Vangelo di Cristo. E sia che venga a vedervi, sia che resti lontano, ho da dire di voi che persistete in un solo spirito, lottando unanimi per la fede del Vangelo, e che gli avversari non vi atterriscono per nulla. Questo è un indizio sicuro, per loro di perdizione e per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio, poiché per riguardo al Cristo a voi è stata concessa la grazia non solo di credere, ma anche di soffrire per Lui, affrontando la medesima lotta che vedeste da me sostenuta e che, come sapete, è tuttora in corso. Se dunque c'è un appello pressante in Cristo, un incoraggiamento ispirato dall'amore, una comunione di spirito, un cuore compassionevole, ricolmatemi di gioia andando d'accordo, praticando la stessa carità con unanimità d'intenti, nutrendo i medesimi sentimenti. Non fate niente per ambizione né per vanagloria, ma con umiltà ritenete gli altri migliori di voi, non mirando ciascuno ai propri interessi, ma anche a quelli degli altri. Coltivate in voi questi sentimenti che furono anche in Cristo Gesù, il quale, essendo per natura Dio, non stimò un bene irrinunciabile l'essere uguale a Dio, ma annichilò se stesso, prendendo natura di servo, diventando simile agli uomini. Ed essendo quale uomo, si umiliò facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte in croce. Per questo Dio lo ha sopraesaltato ed insignito di quel nome che è superiore ad ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, degli esseri celesti, dei terrestri e dei sotterranei, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Così, o miei diletti, essendo stati sempre docili non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono lontano da voi, con timore e tremore lavorate alla vostra salvezza. È Dio, infatti, colui che suscita tra voi il volere e l'agire in vista dei suoi amabili disegni. Fate tutto senza mormorazioni e contestazioni, affinché siate irreprensibili e illibati, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione tortuosa e sviata, in seno alla quale voi brillate come astri nell'universo, tenendo alta la parola di vita. Così potrò vantarmi per il giorno di Cristo, perché non ho corso né faticato invano. Ma anche se il mio sangue venisse versato sul sacrificio e l'offerta della vostra fede, io gioisco e godo con tutti voi. Allo stesso modo, gioite anche voi e godete insieme a me. Spero intanto, nel Signore Gesù, di inviarvi ben presto Timoteo, affinché anch'io, informato sulla vostra situazione, possa essere di buon animo. Non ho nessuno che abbia gli stessi suoi sentimenti, che realmente si preoccupi della vostra situazione. Tutti infatti badano ai loro interessi e non a quelli di Cristo Gesù. Voi conoscete la sua sperimentata virtù. Come un figlio verso il Padre, si è dedicato insieme a me al servizio del Vangelo. Spero di inviare lui appena avrò visto la piega che prenderà la mia causa. Ho fiducia nel Signore di venire presto io stesso. Ho ritenuto necessario per ora mandare da voi Epafrodito, mio fratello, collaboratore e compagno d'armi, vostro inviato e assistente nelle mie necessità, perché aveva un gran desiderio di tutti voi ed era afflitto perché avevate saputo della sua infermità. Si ammalò, infatti, e poco mancò che morisse. Ma Dio ebbe pietà di lui, e non solo di lui, ma anche di me, così non si accumularono le mie afflizioni. Perciò ne ho anticipata la partenza, affinché, vedendolo, vi rallegriate di nuovo, e io sia meno triste. Accoglietelo dunque nel Signore con grande festa. Onorate le persone come lui, perché per l'opera di Cristo rischiò la morte, mettendo a repentaglio la sua vita, per supplire al servizio che non potevate prestarmi voi. Infine, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Scrivervi gli stessi avvertimenti a me non dà fastidio, mentre a voi dà sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi dai falsi circoncisi. I veri circoncisi siamo noi, che prestiamo culto secondo lo Spirito, e gloriandoci in Cristo Gesù, non riponiamo la nostra fiducia nella carne, quantunque io personalmente abbia di che confidare anche nella carne. Se qualcuno ritiene di riporre la sua fiducia nella carne, io ho maggior ragione. Circonciso all'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto a zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia legale irreprensibile. Ma per il Cristo ho giudicato una perdita tutti questi miei vantaggi. Anzi, li giudico tuttora una perdita, a paragone della sublime conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il cui amore ho accettato di perderli tutti, valutandoli rifiuti, per guadagnare Cristo ed essere in Lui, non con una mia giustizia che viene dalla legge, ma con quella che si ha dalla fede di Cristo, quella giustizia cioè che viene da Dio e si fonda sulla fede, e per conoscere Lui con la potenza della sua risurrezione e la partecipazione alle sue sofferenze, trasformandomi in un'immagine della sua morte, per giungere in qualche modo a risorgere dai morti. Non che io sia già arrivato alla meta, o sia già in uno stato di perfezione, ma mi sforzo nel tentativo di afferrarla, perché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non pretendo di averla già afferrata. Questo dico, dimenticando il passato, e protendendomi verso l'avvenire, mi lancio verso la meta, al premio della celeste chiamata di Dio in Cristo Gesù. Quanti dunque siamo perfetti, coltiviamo questi pensieri. Se poi in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi rivelerà anche questo. Se non che, al punto in cui siamo giunti, continuiamo sulla stessa linea. Imitate me, fratelli, e fissate la vostra attenzione su coloro che si comportano secondo il modello che avete in noi. Perché molti, dei quali spesso vi ho parlato, e ora ve ne riparlo piangendo, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro fine è la perdizione, il loro Dio è il ventre, il loro vanto è il disonore. Essi hanno in mente i beni della terra. Noi però siamo cittadini del cielo, da dove attendiamo anche come Salvatore il Signore Gesù Cristo, che trasformerà il nostro misero corpo per uniformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutto l'universo. Pertanto, miei fratelli diletti e desiderati, mio gaudio e mia corona, perseverate così nel Signore, o diletti. Raccomando ad Evodia ed esorto Sintiche a vivere in buona armonia nel Signore. Prego caldamente anche te, o sincero Sizigo, di aiutarle, perché hanno strenuamente lottato con me per il Vangelo, insieme a Clemente e ai restanti miei collaboratori, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Siate sempre allegri nel Signore, ve lo ripeto, siate allegri. La vostra amabilità sia conosciuta da tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi in nulla, ma in ogni necessità, con la supplica e con la preghiera di ringraziamento, manifestate le vostre richieste a Dio. Allora la pace di Dio, che sorpassa ogni preoccupazione umana, veglierà in Cristo Gesù sui vostri cuori e sui vostri pensieri. Per il resto, fratelli, quanto c'è di vero, nobile, giusto, puro, amabile, lodevole, quanto c'è di virtuoso e merita applauso, questo attiri la vostra attenzione. Mettete in pratica quello che avete imparato, ricevuto, udito e visto in me, e il Dio della pace sarà con voi. Mi sono molto rallegrato nel Signore a vedere finalmente rifiorire i vostri sentimenti per me. Certamente li coltivavate anche prima, ma vi mancava l'occasione. Io non parlo spinto dal bisogno. Ho imparato infatti a bastare a me stesso in qualunque condizione mi trovi. So privarmi ed essere nell'abbondanza. In ogni tempo e in tutti i modi sono stato iniziato ad essere sazio e a soffrire la fame, a vivere nell'agiatezza e nelle privazioni. Tutto posso in colui che mi dà forza. Ciononostante, avete fatto bene a condividere le mie tribolazioni. Proprio voi, filippesi, sapete che all'inizio della evangelizzazione, quando lasciai la Macedonia, nessuna chiesa aprì un conto con me di dare e di ricevere, eccetto voi soli, e che una o due volte, mentre ero a Tessalonica, avete provveduto alle mie necessità. Io non cerco il dono, cerco piuttosto il frutto che si accresce sul vostro conto. Ricevo tutto e sto nell'abbondanza. Sono ricolmo, avendo avuto da Epafrodito i vostri doni, profumo soave, sacrificio gradito, che piace a Dio. Il mio Dio soddisferà ogni vostro bisogno in proporzione della sua ricchezza, in Cristo Gesù. A Dio e Padre nostro, gloria nei secoli dei secoli. Amen. Salutate ciascun santo in Cristo Gesù. Vi salutano i fratelli che sono con me. Vi salutano tutti i santi, in modo particolare quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia col vostro spirito.